Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, questa sera parliamo del tema delle città. Di città si parla sempre di più, sono diventate uno dei poli più importanti dello sviluppo in tutto il mondo e tutte le città cercano di mettersi in luce, di far acquistare notorietà, di diventare sempre più attrattive puntando anche sulla loro bellezza. E allora proprio su questo tema, sul tema della bellezza, ci richiama il libro di Marco Romano, che è uno studioso di questo tema, è un docente di estetica delle città, è un argomento che ha insegnato in molte università italiane e che ha pubblicato con UTET il libro Le belle città, 50 ritratti di città come opere d'arte, pubblicato da UTET, 430 pagine, 35 euro. Quindi 50 ritratti di città, 50 ritratti di città ricavati proprio dalle passeggiate, dallo studio dello stesso Marco Romano, che scopre le città soprattutto camminandovici, passeggiandovi, e da questo ricava dei ritratti molto particolari di queste città, che non sono soltanto città italiane o città europee, ci sono anche delle incursioni in alcune grandi città internazionali per cogliere anche quelle che sono le differenze tra la sintassi, come la chiama lui, delle città europee e italiane e quella delle altre grandi città, riconoscendovi i punti comuni ma soprattutto quelle che egli stesso chiama le trasgressioni che poi rendono uniche molte città d'Italia e di tutto il mondo. E su questo sentiamo adesso l'autore. Buonasera Marco Romano. Buonasera professor Carrubba. Grazie professore. Professore, lei ci spieghi allora, proprio come professore caro Marco Romano, qual è la differenza tra il visitare i monumenti e il cogliere la bellezza complicata di una città? Bisogna mettersi in un'ottica abbastanza semplice, che tutto quello che lei vede in una città è l'esito di un'intenzione estetica. Se incomincia a guardare le case che ci sono lungo le vie di una città, vede che ogni casa è la manifestazione di un desiderio estetico, perché non solo c'è l'architetto che l'ha progettata con cura, ma dietro c'è un committente che voleva una bella casa. E quindi tutte le case che lei vede nella città e le guarda con attenzione hanno dietro un desiderio estetico, quando anche sia il committente fosse uno che ha programmato di costruire un condominio, ciò nonostante ha fatto il più bel condominio che ritenesse possibile di affidare il progetto all'architetto, perché desiderava fare un bel condominio e venderlo bene. Le città sono un museo se si guardano le case una di fianco all'altra, guardandole bene invece che guardandole superficialmente. E allora lei ci invita all'avventura intellettuale di scoprire una città, come scrive lei stesso. Come vivere questa avventura? Io ho raccontato come la vivo personalmente. Quando vado in una città che non conosco, ne sono tutto contento e la percorro a piedi. Non mi porto dietro una guida turistica, neanche una piantina, la percorro a piedi. Sai, intanto nelle città, io so che ci sono in tutte le città europee, e solo in quelle europee, sono sicuro che troverò un palazzo municipale, che troverò una chiesa principale, che troverò una strada principale dove ci sono i negozi migliori, poi troverò una piazza principale, in genere trovo una piazza principale, poi facilmente se sono in Italia trovo una piazza dei conventi, e cioè mi incontro delle figure familiari che incontro in tutte le città, incontro il residuo di una passeggiata alberata di quelle che vengono fatte partire dal 500 e che c'è anche nelle città più piccole. Quando io parlo delle città non intendo soltanto le grandi città, nel volume tra le 50 città c'è quella di Sassello, che è il piccolo paese che conosco perché è quello dei miei antenati, dove lei trova tutte le cose di una grande città. Lei trova una strada monumentale dove l'establishment ha costruito i propri palazzi, la strada principale dove ci sono i negozi, come c'erano nella 5 secoli fa, ci sono ancora adesso i negozi principali, c'è il palazzo municipale nella piazza principale, c'è la chiesa principale con la sua piazza, ci sono tutte le cose che ci sono in ogni città. E allora mi metto a camminare e ogni volta che incontro un palazzo, una piazza, mi domando come mai è stato costruito in quel posto? E cioè, come mai i cittadini hanno scelto di costruirlo in quella posizione? Perché c'è una scelta, non è che abbiano deciso senza sapere quel che facevano. E anche quando spontaneamente hanno deciso di concentrare i propri negozi più importanti in una strada più importante, lo hanno fatto non perché ci sia una legge o una regola, ma perché hanno trovato conveniente gli orefici mettere il proprio negozio sul Ponte Vecchio, vicino ai bancari e ai cambiavalute, e insieme ai sarti. I sarti cucivano dei vestiti preziosissimi e quindi erano tra le attività più preziose della città. E allora di colpo la strada più rinomata, principale, è diventa il Ponte Vecchio, e dobbiamo immaginare che le signore andavano lì davanti a vedere nei negozi che cosa si poteva comprare, delle cose appena arrivate dall'estero. E nelle sue 50 città ci sono città di tutto il mondo, moltissime sono italiane, poi ce ne sono di europee, poi ce ne sono di extraeuropee. Quali sono gli elementi distintivi della città europea? Gli elementi distintivi sono proprio quelli che ho elencato, cioè il fatto che ci siano sistematicamente il palazzo municipale, la piazza principale, la chiesa e quant'altro. Fuori dell'Europa tutte queste cose non ci sono. Non ci sono l'equivalente, cioè quando hanno fondato un califfo Fatimide, ha fondato il Cairo, e il Cairo era prima di tutto era la fortezza dove stava lui con i suoi soldati, e poi gli altri si arrangiassero, e non esisteva una piazza, c'era uno spiazzo naturalmente per il mercato dei cavalli, ma non esisteva una piazza come da noi, la piazza principale, non esisteva nulla di tutto questo, e quindi non poteva esistere, io parlo dell'Islam, non poteva esistere una volontà di bellezza, un'intenzione estetica come quella che c'è da noi. Nel libro ci sono delle curiosità. Una è Jaipur. Jaipur è una città deliberatamente fondata, lui aveva già un altro castello, un'altra capitale, da un rajà Jai Singh, che era un personaggio molto curioso, siamo nel 600, era un personaggio molto curioso e deve aver avuto dei contatti strettissimi con i numerosissimi missionari che pullulavano da quelle parti, i portoghesi a Goa, e questi missionari arrivavano non soltanto portandosi dietro i libri religiosi, ma si portavano dietro trattati d'architettura, si portavano dietro qualsiasi cosa che dimostrasse l'esistenza e la consistenza di una civiltà intera, non soltanto delle chiese. E quindi Jai Singh ha visto dei progetti di città europee, come gli hanno detto, e ha fondato Jaipur, che è una città fatta all'europea, cioè una città di strade ampie, di veri e propri boulevard, con incrociate con piazze, con delle larghe piazze quadrate porticate, esattamente come siamo fossimo in Europa. Poi fuori dall'Europa c'è New Orleans, ma perché New Orleans è una città fondata dai francesi, di gusto francese, e quindi sembra di essere una città europea, con tutte le cose della città europea. Poi c'è New York, perché è stata mi sono adoperati dei principi che percorrevano l'Europa. Quella squadrettatura così famosa dell'Europa è nata da qualche parte, a chi hanno fatto riferimento quelli che tracciavano il progetto di New York, che cosa avevano in testa? Avevano in testa un modello europeo per il momento, e anche in seguito inseguiranno il modello europeo che per un certo periodo non hanno avuto come avrebbero desiderato, e così di altre città fuori d'Europa. Ho messo Brasilia solo come una curiosità, perché Brasilia è esattamente la città progettata per essere la nuova capitale del Brasile, è dal punto di vista nostro, diciamo così, di chi apprezza la bellezza di una città, è un fallimento completo, perché è una città moderna che è praticamente invivibile dal nostro punto di vista. Non c'è nulla che la renda terreno di un'intenzione estetica continua. Tant'è che a Brasilia, paradossalmente, è rimasta la città della capitale e abitata da quelli che devono abitare nella città capitale, ma vicino c'è una città completamente spontanea, del tutto autonoma, che ha la sua brava chiesa, le sue brave piazze, i suoi caffè, tutte le cose che ci sono in una normale città. Come mai fra le 50 città capolavoro non c'è Roma? Ma le città lì io le scelgo per un'improvvisa affinità sentimentale, perché succede che per qualche caso mi capiti di visitare una città e poi mi viene il desiderio di fare il ritratto di quella città, perché una volta che io ho camminato, che ho guardato, che ho riconosciuto qualsiasi intenzione, la voglia di fare il ritratto è legata all'improvvisa passione per qualche cosa di specifico. Vale a dire, tutte le città sono tutte uguali, nel senso che hanno tutti gli stessi temi collettivi, tutte le medesime sequenze di piazze e di strade. E poi succede che ogni città ha qualche particolarità, qualcosa di diverso. E di lì nasce l'idea che di quella città lì farò il ritratto. Ma 50 ritratti sono stati poi concordati con l'editore tra i 120 ritratti che io già, che stanno nel mio sito, che ho già fatto. Ma ci sono altre 100 città delle quali potrei decidere di fare il ritratto se qualcuno d'improvviso in una conversazione me lo chiedesse. Beh, comunque possiamo aspettare la seconda edizione del libro. Grazie a Marco Romano, autore di Le Belle Città. Grazie mille. Prima di separarci per qualche istante, vi ricordo che la settimana scorsa abbiamo celebrato la festa del tricolore, al ricordo di quel 7 gennaio 1797, quando la Repubblica Cispadana per la prima volta adottò come vessillo nazionale il tricolore rosso, bianco e verde. E la bandiera era stata issata per la prima volta quel giorno a Reggio Emilia per suggerimento di un deputato romagnolo, Giuseppe Compagnoni. Quel tricolore era diverso da quello attuale, infatti si trattava di un tricolore a strisce orizzontali con il rosso in alto e il verde in basso, caricato di vari simboli nella striscia centrale bianca, tra cui una faretra con quattro frecce che simboleggiavano Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia. Questa e tante altre notizie traggo da un libro molto interessante di Bruno Cianci, che è un giornalista e storico e che ha scritto La stoffa delle nazioni, storie di bandiere, pubblicato da Odoia, 320 pagine, 22 euro. Questo è un libro ricco anche di molte illustrazioni che illustra la vicenda di questa storica insegna, appunto la bandiera, che nacque a Oriente. I romani infatti preferivano dei simboli rigidi. Poi col Medioevo in Europa l'uso della bandiera si diffonde e qui troviamo appunto la storia delle bandiere più celebri fino al moltiplicarsi dei vessilli dopo la nascita nel secondo dopoguerra e la fine del colonialismo di tante altre nuove nazioni. E adesso ci interrompiamo per un attimo e ci sentiamo fra pochi istanti. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, siamo ancora in tempo per segnalare un calendario, in particolare quello scritto da Mirella Delfini, che è una giornalista ultra novantenne, esperta di biologia, di molluschi e di ragni, e che ha scritto una sorta di calendario delle grandi scoperte dei maggiori eventi scientifici. Il libro si intitola La scienza giorno per giorno, 1861-2015. È pubblicato edizioni Clichy, 432 pagine, 15 euro, e ha la prefazione di Piero Angela. Si parte dunque dall'Unità d'Italia, come avete sentito, e da lì il libro segue passo passo la prorompente cavalcata, cito dal libro, di scoperte e invenzioni che si susseguono fino ad oggi. Queste sono appunto le parole di Piero Angela nell'introduzione. E il libro si apre proprio in una data ancora a noi vicino, cioè il 12 gennaio, quando nel 1861 un medico ungherese, Ignaz Semmelweis, accusa i colleghi di uccidere migliaia di puerpere per mancanza di igiene. Lo stesso anno, a fine mese, si verifica un curioso evento. Nonostante l'ostilità generale, il governo cerca di imporre il metro, una misura nata in Francia, che non ebbe molta fortuna in Italia. Perfino Alessandro Manzoni, ricorda il libro, che era il presidente del Real Istituto Lombardo di Scienze, Lettere e Arti, farà l'impossibile per convincere i giovani a usare la nuova misura, ma i ragazzi sono cocciuti. Una storia sentimentale della scienza da Omero a Borges, come recita il sottotitolo, è il libro di uno scrittore scienziato, Marco Malvaldi, noto anche per i suoi gialli, che si intitola L'infinito tra parentesi, è pubblicato da Rizzoli, 252 pagine, 18 euro. Questo libro ci vuole invitare a pensare, anzi a usare il cervello. Scrive infatti l'autore: ritenere che ci sia un solo modo di usare il cervello, il nostro, e che questo modo, magari irto di calcoli raffinatissimi, sia quello giusto, è da cretini. Di cretini competentissimi, certo, scientificamente o umanisticamente o tecnologicamente avanzati, ma senza dubbio cretini. E è proprio a questo, a usare il cervello, può usare la grande letteratura, che spesso ci dà immagini enormemente più efficaci di tante descrizioni scientifiche. La caduta può avvenire, per esempio, con velocità direttamente proporzionale al tempo intercorso tra il momento dello svenimento e quello dell'impatto. Questa è la lettura, per così dire, scientifica, nei termini rigorosi di quel linguaggio. Ma lo stesso fenomeno, la caduta, può essere fulmineamente descritto da Dante con un verso immortale: «E caddi come corpo morto cade». Così Omero ci introduce alle nanotecnologie in questo libro, pure Gozzano all'analisi strutturale, per concludere con una raccomandazione. Rifiutarci di usare il ragionamento matematico, dice Malvaldi, la geometria e il numero, significa costruire nel nostro cervello strutture ambigue, se non addirittura sbagliate. Rifiutarci di usare le emozioni significa costruire con lo sputo invece che col cemento. Credere di poter fare a meno di uno di questi due elementi, e cioè il ragionamento e le emozioni, a mio modesto avviso sarebbe allo stesso tempo triste e cretino. E sull'evoluzione scientifica vi segnalo di Pietro Greco, che è un esperto di comunicazione della scienza, il libro La scienza e l'Europa dal 600 all'800. Pubblicato dall'Asino d'Oro, 526 pagine, 24 euro. Anche questa è una storia dell'evoluzione del pensiero scientifico in Europa. Si parte dall'esecuzione di Giordano Bruno il 19 febbraio 1660 a Campo dei Fiori, a Roma, che segnò una tappa drammatica nello sviluppo del pensiero scientifico moderno, il cui avvio potremmo stabilire, e così si arrischia a fare l'autore, al 12 marzo del 1610, 50 anni prima, quando venne pubblicato il Sidereus Nuncius di Galileo. In quell'occasione, scrive infatti l'autore, senza salire sulle spalle di alcun gigante dell'antichità, annuncia di aver visto in cielo cose, letteralmente, mai viste prima, e di poter confutare con osservazioni empiriche secoli di filosofia in libris. Quel giorno, il 12 marzo 1610, l'Europa, insomma, dimostra di saper produrre nuova conoscenza rilevante in fatto di natura e di aver ormai conseguito la leadership scientifica del mondo. Quindi comprendete il taglio, e anche il taglio quasi giornalistico col quale questa storia appassionante è narrata. Una storia fatta non solo di scoperte scientifiche, ma anche di un difficile rapporto con la verità rivelata, la religione e anche con gli equilibri sociali e politici. Venezia, per esempio, quando capisce l'importanza del cannocchiale di Galileo, lo fa subito professore a vita e gli raddoppia lo stipendio. E se il 600 è il secolo della rivoluzione, il 700 e l'800 sono i secoli dell'egemonia, quelli nei quali la piccola Europa acquista il dominio sul mondo intero grazie appunto a quella che è una vera rottura della coscienza europea. E a questo punto il confettino di Jan Šeska vi segnalo un libro scientifico che spiega ai ragazzi la fisica. Il libro si chiama Frank Einstein e il motore ad antimateria, con l'illustrazione di Brian Biggs, tradotto da Francesco Novaina per Castoro, 192 pagine, 13,50 euro. Qui la scienza diventa un grande e divertente gioco che ci fa capire molti degli sviluppi e delle prospettive avveniristiche che si stanno aprendo. E prima di salutarci vi segnalo due libri stagionali dedicati alla montagna. Il primo è un romanzo di Paolo Cognetti, che è uno scrittore milanese che ha già scritto sul tema della montagna. Si intitola Le otto montagne, pubblicato da Einaudi, 200 pagine, 18,50 euro. Qui troviamo un Pietro, figlio di una coppia di veneti emigrati a Milano e dominati dalla passione per la montagna che trasmettono al ragazzo. Il loro autentico punto di riferimento è un paesino ai piedi del Monte Rosa, dove Pietro trascorre le vacanze, cresce, segue il padre nelle sue arrampicate passeggiate e, dopo la prematura morte del genitore, scopre di aver ereditato il rudere di una baita che il padre aveva acquistato. Col passare dell'età i due uomini, padre e figlio, si erano allontanati, ma quel rudere è l'occasione per riscoprire la memoria del padre, per ricostruirne le gesta in montagna, per riannodare il rapporto con l'unico autentico amico di gioventù, Bruno, che lo aiuta a recuperare quella baita e a renderla abitabile. Lì trascorreranno momenti magici in piena solitudine che punteggiano i ritorni di Pietro da frequenti viaggi in Himalaya, dato che il trekking e la montagna sono ormai diventati il suo mestiere. E lì, nella baita, maturerà la decisione dell'amico di cambiare vita, una scelta che si rivelerà fatale, ma che segnerà definitivamente l'attaccamento alla montagna, alla solitudine degli alpeggi e la continua riscoperta di sé. L'altro libro ci porta sull'altro versante delle Alpi, nelle Alpi Bernesi, sotto un altro ghiacciaio, quello del Monte Diableret. Siamo in estate, la notte del 22 giugno, per la cronaca l'anno il 1714, quando si stacca una enorme frana che ebbe, è un fenomeno storico, degli effetti devastanti su tutta la valle. E da questo trae spunto il libro, uno dei più celebri di uno scrittore svizzero, Charles Ferdinand Ramus, vissuto tra il 1878 e il 1947, che dopo un soggiorno parigino tornò nel suo cantone di Vaud e non se ne mosse più, diventando forse lo scrittore più celebre della Svizzera e uno dei più noti di lingua francese, molto apprezzato da Céline e da Stravinsky, per il quale scrisse il libretto della celebre Histoire du Soldat. Questo libro si intitola La montagna ci cade addosso, è pubblicato da Idea Felix, 160 pagine, 20 euro, ed è tradotto da Valeria Lupo, l'editore, con la vendita di questi libri finanzia progetti culturali e laboratori nelle scuole. In questo caso sarà finanziato il progetto Radio Freccia Azzurra, una web radio condotta dai bambini in 3 scuole a Padova e Roma. Anche nel libro di Ramuz troviamo una baita isolata che provoca nel giovane protagonista, che trascorre i giorni del pascolo in alpeggio staccato dalla giovane sposa, un sentimento ben diverso da quello sperimentato nel libro precedente di Pietro. Qui Antoine, il protagonista, è autenticamente angosciato da una cosa inumana e a lungo andare insopportabile, il silenzio, leggo dal libro. Il silenzio dell'alta montagna, il silenzio di quei deserti d'uomini dove l'uomo non appare che temporaneamente, se egli stesso per caso è taciturno si ha un bell'ascoltare, si sente soltanto che non si sente niente. Era come se non esistesse più nulla da nessuna parte, da lì sino all'altro capo del mondo, da lì sino al fondo del cielo. In mezzo a questa angoscia un boato e poi la frana e il movimento come di formiche impazzite degli scarsi valligiani alla ricerca dei dispersi, gli uomini, ma non meno importanti le bestie, tra i quali c'è lo stesso Antoine, pianto dalla moglie che ha appena scoperto di aspettare un figlio. Poi il colpo di scena che darà il là a un'autentica riconquista del senso della vita per Antoine e per sua moglie Thérèse. È una montagna, quella di Morro Rock in California, una delle viste più famose d'America, domina la copertina di un libro di cui è autore uno degli scrittori americani più amato da giovani e ambientalisti, cioè Henry David Thoreau. Il libro si intitola Camminare e altri passi scelti, curato e tradotto da Stefano Paolucci per Piano B, 130 pagine, 14 euro. Quella del camminare per Thoreau un'idea soprattutto filosofica. E perciò un filosofo, Leonardo Coffo, introduce questo libro spiegandoci che camminare diventa il modo attraverso cui una certa filosofia è possibile, una filosofia silenziosa ma curiosa, che sa perdersi e perdere tempo, perché chi perde tempo acquista spazio e che è in grado di dialogare con gli infiniti elementi del bosco. Questo libro contiene vari saggi, quello principale del 1862 raccoglie 2 conferenze svolte negli anni 1850-51. Gli altri scritti sono di un'altra conferenza, Notte e chiari di luna, e pagine tratte dai diari e dalle lettere. Queste ultime pagine inedite per l'Italia. E con questo ringrazio Guido Scotti e Chiara Compagnoni in redazione, Paolo Corleone in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.